Mi ha sempre fatto effetto che nella Bibbia vi siano episodi descritti in poche parole, come quello relativo a Melchisedec, re di Gerusalemme, mentre altri lo sono nei minimi particolari, come l'incontro di Gesù con la Samaritana. Evidentemente lo scrittore aveva un obiettivo ben preciso e vale la pena di cogliere le varie sfumature che l'evangelista Giovanni ha voluto mettere in evidenza. Dopo aver detto che Gesù doveva passare per la Samaria, Giovanni mette in evidenza che proprio in quel luogo c'era il pozzo dato da Giacobbe a Giuseppe, suo figlio, presso il quale Gesù si fermò verso mezzogiorno. Ed ecco che ad un tratto arriva una donna ad attingere l'acqua, alla quale Gesù chiese comprensibilmente da bere. Così continua il racconto. La donna rispose: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani». Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere tu stessa, gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e torna qui». La donna rispose e gli disse: «Io non ho marito». Gesù le disse: «Hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». La donna gli disse: «Lo so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io sono colui che ti parla». In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: «Che vuoi?» o «Perché parli con lei?». Gv 4.7.26. Questo incontro e conversazione mettono in evidenza l'attualità di una questione antica protratta per secoli, cioè il luogo dove adorare Dio o avere il culto e come Dio debba essere adorato nell'Antico Testamento. Questa problematica non è stata posta da Gesù in modo violento. Il Figlio di Dio incarnato non ha voluto colpire con dei dogmi una povera donna attenta a svolgere una sua normale mansione. È stata invece la donna a porre le domande. Com'è successo? Innanzitutto è cominciato con un atto di amore. Infatti Gesù chiede alla donna da bere, pur sapendo che apparteneva ad un gruppo religioso avverso al suo. E la donna rimane stupita che un tale uomo si fosse rivolto a lei per chiedere un aiuto. Se le conversazioni teologiche, cioè tutti quei ragionamenti rivolti verso Dio, scaturissero da un atto di amore. Purtroppo, chi parla di Dio spesso è più propenso a far vedere che l'altro è nell'errore, piuttosto che vedere come sia possibile comprendersi. Questo non significa che tutti abbiano ragione nel campo della fede, né significa che la verità, cioè Gesù, possa essere negoziabile. Ma parlare con l'intenzione di comprendere l'altro e le motivazioni che lo spingono a professare una fede diversa è l'inizio per una serena e buona conversazione. La donna, spiazzata dal gesto di gentilezza, non vuole interrompere la conversazione. e viene a sapere che chi parla con lei non è un uomo qualsiasi, ma almeno un profeta. Anche questo aspetto è importante per chi predica l'Evangelo. Spesso nel portare la bella notizia di Gesù come unico Salvatore e Signore da pregare, si pretende che le persone siano già disposte all'ascolto, ma è normale che occorra del tempo per instaurare un certo tipo di rapporto amichevole e fiducioso, per cui non è male se prima si passa del tempo a spiegare meglio chi si è e cosa si fa. La donna samaritana non avrebbe introdotto la conversazione in merito alla sua fede se non avesse saputo che Gesù era un profeta. Solo allora ha avuto il coraggio di tirare fuori un problema che molto probabilmente rodeva la sua vita religiosa e la sua comunione con Dio. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Chi ha ragione? Non è forse il problema di oggi per molti? Io ho la mia fede millenaria, i nostri padri hanno sempre fatto così. Altri invece dicono che la religione non salva. Insistono affermando che non importa essere cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani o buddisti, ma credere in Gesù. Chi ha ragione? Una domanda più che giusta è che solo Gesù, in qualità di figlio di Dio, può dare. La risposta di Gesù spiazza la samaritana, perché, ancora una volta, egli non prende una posizione a favore di una fazione, anche se prima dice qualcosa che oggi risulterebbe molto offensivo. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il concetto di tolleranza applicato a una professione di fede, o il pluralismo e il riconoscimento delle ragioni dell'altro, sono idee che devono essere ritenute moderne. Infatti Gesù risponde: «Voi adorate quel che non conoscete». Come prenderemmo noi oggi una simile risposta? Accetteremmo la sentenza di adorare una divinità che non sia quella che pensiamo? In pratica, accetteremmo di essere degli ignoranti e di avere una religione sbagliata? Poiché, come si dice, tutte le strade portano a Roma, intendendo con questo che in fondo tutte le religioni vanno bene e hanno del vero, siamo disposti ad accettare la sentenza che una sola espressione di fede è giusta e le altre sono sbagliate? Gesù disse: «Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei». Per cui, oltre a aver detto che i samaritani adoravano una divinità che non conoscevano, ha aggiunto che lui e i giudei suoi connazionali adoravano ciò che conoscevano, dato che la salvezza proveniva dai giudei. Malet esaltecala che la samaritani e chi erano i giudei da adorare gli uni un Dio sconosciuto e gli altri il Dio giusto. L'origine dei samaritani si trova descritta nel secondo libro dei Re, al capitolo 17. Quando, nel 721 a.C., gli Assiri conquistarono le 10 tribù di Israele del nord della Palestina, deportarono un buon numero di vinti, sostituiti poi con stranieri provenienti dalla Mesopotamia e dalla Siria. Costoro, sposandosi con i giudei rimasti sul posto, diedero origine alla stirpe mista dei samaritani. Ma come esprimevano il loro culto i samaritani? Così viene descritta la loro condotta. Chusse, uno dei sacerdoti, che erano stati deportati dalla Samaria, venne a stabilirsi a Betel e insegnò agli abitanti come dovevano temere l'Eterno. Ciò nonostante, tutte quelle nazioni continuarono a fare i propri dei e li collocarono nei templi degli alti luoghi che i samaritani avevano costruito. Ogni nazione nella città in cui abitava. Quelli di Babilonia fecero Sukkot Benot, quelli di Kut fecero Nergal, quelli di Hamat fecero Ashima, quelli di Avva fecero Nibaz e Tartak, e quelli di Sefarvaim bruciavano i loro figli col fuoco in onore di Adrammelech e di Anammelech, dei di Sefarvaim. Essi temevano l'Eterno, ma si scelsero dei sacerdoti degli alti luoghi provenienti da ogni classe e che offrivano per loro sacrifici nei templi degli alti luoghi. Così essi temevano l'Eterno e servivano i loro dei, secondo le usanze delle quali erano stati deportati. 2 Re 17.2, 8:33. Una simile descrizione è comprensibile se si capisce l'affermazione ripetuta 3 volte: temevano l'Eterno. Per un pio ebreo temere l'Eterno, cioè il suo Dio, significava agire secondo i suoi comandamenti, sia quelli del culto che civili e morali, cosa del resto che i samaritani in parte facevano perché erano stati insegnati dai sacerdoti giudei. Ma i samaritani, oltre che temere l'Eterno, avevano giù un Nuovo Testamento o anche le loro usanze religiose pagane, adoravano gli astri del cielo, bruciavano i loro figli in onore alle loro divinità. I sacerdoti erano uomini qualsiasi, scelti dai loro simili, che offrivano i sacrifici nei loro templi. Così, in definitiva, i samaritani in parte facevano ciò che è giusto, ma senza aver tolto le loro sbagliate abitudini. UN dramma verame Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento enso, che segna la storia dell'umanità religiosa, soprattutto nei primi secoli della nascita del cristianesimo, il quale aveva affinità e coincidenze con culti e credenze pagane. Questo spiega perché, in seguito, l'espressione di una fede ebraica cristiana si paganizzò senza tanti drammi. Infatti, il cristianesimo condivideva con i culti del mistero l'idea dell'incontro personale e mistico con la divinità, del rituale che rimanda a tale esperienza salvifica e che la rende, per così dire, palpabile. Se oggi si ha una forma di espressione del cristianesimo molto lontana dall'originale, è dovuto al fatto che gli elementi pagani sono entrati perché già presenti nella pietà popolare pagana. Se i samaritani nei templi esprimevano il loro culto ad altri dei rappresentati da statue o altro, non era forse vero che a sua volta gli ebrei avevano il loro culto nell'immenso tempio costruito da Salomone, tempio nel quale erano raffigurati animali, angeli, cherubini e fiori? E vero che questi non venivano adorati dagli ebrei, ma dal momento che erano presenti nel tempio, perché non assegnare a loro qualche onore? Se si adora il Creatore, perché non attribuire alle sue creature un certo culto, anche se inferiore? A Dio non si toglie nulla, solo che oltre a Lui si onorano anche le sue opere. Cosa è cambiato oggi? Non ci sono forse dei samaritani che hanno solo cambiato nome? E se si cambia nome, lo si cambia per bene. Ecco che allora dei cristiani pregano il Dio Trino e vivente, ma nello stesso tempo rivolgono preghiere anche a persone quando Dio ha ordinato chiaramente che esiste un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Non è paganesimo questo? Queste persone non adorano forse quello che non conoscono? Sono domande molto serie, perché serie sono le vie di Dio. Forse la forma più evidente di paganesimo entrata nell'espressione religiosa definita cristianesimo è il culto delle reliquie. Il culto delle reliquie è una questione antica ma estremamente attuale, ponendosi in linea di continuità con un passato non archiviato. Infatti possiamo trovare una prima, se non la prima in assoluto, giustificazione teologica del culto delle reliquie in uno scritto databile intorno alla seconda metà del secondo secolo, e cioè il martirio di Policarpo. Così leggiamo: il centurione, vedendo la contesa suscitata dai giudei, avendo posto in mezzo al rogo il cadavere di Policarpo, lo bruciò. E così noi, più tardi, raccogliemo le sue ossa più pregevoli delle perle preziose e più valevoli dell'oro, e le depositammo in un luogo conveniente. Qui vi ci riuniremo, per quanto ci sarà possibile, con allegrezza e con gioia, se il Signore ci concederà di celebrare il giorno natalizio del suo martirio in memoria degli atleti passati e ad esercizio e preparazione dei futuri. Queste parole, come abbiamo detto, costituiscono la più antica testimonianza delle prime manifestazioni del culto dei santi e delle reliquie. Una morte, quella di Policarpo, circondata da segni prodigiosi, paragonata a quella di Cristo, tanto che molti dei fedeli presenti avrebbero desiderato essere in comunione con la sua carne santa. Il culto delle reliquie è poi confermato anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, 1674-1675, che recita così: oltre che alla liturgia dei sacramenti e dei sacramentali, la catechesi deve tener conto delle forme di pietà dei fedeli e della religiosità popolare. Il senso religioso del popolo cristiano, in ogni tempo, ha trovato la sua espressione nelle varie forme di pietà che circondano la vita sacramentale della Chiesa, quali la venerazione delle reliquie, la visita ai santuari, i pellegrinaggi, le processioni, la via crucis, le danze religiose, il rosario, le medaglie, parole che fanno pensare, sono le forme di pietà dei fedeli e della religiosità popolare che devono dettare le regole come esprimere la giusta fede. O è la volontà di Dio espressa nei suoi comandamenti a formare la pietà e la religiosità dei fedeli? Se alcuni credenti meno, e sottolineo alcuni meno, hanno pensato bene di rendere onore a un martire, significa che far questo fosse giusto? Anche gli apostoli tirarono a sorte per conoscere la volontà di Dio, ma è forse questo il metodo che i cristiani usano? Il samaritanesimo, cioè avere un comportamento metà cristiano, metà pagano, non è dunque morto. Se i samaritani vivevano nel compromesso religioso, chi erano gli ebrei o i giudei, dei quali Gesù disse «Noi adoriamo quel che conosciamo», che cosa aveva e ha il popolo di Israele di diverso dagli altri popoli? Non esprime forse una religione che si annovera tra le altre religioni? La risposta è «No». La religione ebraica è unica e diversa perché è stata rivelata direttamente da Dio. Lui stesso lo ha detto. Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra, e chiedi da un'estremità dei cieli all'altra se vi fu mai una cosa grande come questa o si è mai udita una cosa simile a questa. Vi fu mai alcun popolo che abbia udito la voce di Dio parlare di mezzo al fuoco, come l'hai udita tu, e sia rimasto in vita? O vi fu mai alcun Dio che abbia provato ad andare a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra nazione? Mediante prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con grandi terrori. Come fece per voi l'Eterno, il vostro Dio, in Egitto sotto i vostri occhi? Tutto questo ti è stato mostrato, affinché riconosca che l'Eterno è Dio e che non vi è alcun altro fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e hai udito le sue parole di mezzo al fuoco. E perché ha amato i tuoi padri, egli ha scelto la loro progenie dopo loro, e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza mediante la sua grande potenza, scacciando davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per far entrare te e darti il loro paese in eredità, come oggi. Sappi dunque oggi e ritienilo nel tuo cuore che l'Eterno è Dio, lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e che non è alcun altro. Osserva dunque i suoi statuti e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché abbia prosperità tu e i tuoi figli dopo di te e affinché tu prolunghi i tuoi giorni nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà per sempre. DT 4.3240. Bisogna cogliere seriamente la sfida dell'Eterno Dio. Bisogna dare seriamente valore alle sue parole. Diversamente non siamo per nulla degni di leggere ciò che Lui ha detto, e tantomeno di predicare il suo Evangelo. In questo discorso l'Eterno ha messo in evidenza tre cose. La prima è che l'Eterno ha detto a Israele di essere l'unico popolo al quale si è fatto conoscere. Se accettiamo questa unicità, dobbiamo anche avere un messaggio estremista e dire che non tutte le religioni sono giuste e conducono allo stesso Dio. Se sbagliavano i samaritani, che adoravano ciò che non conoscevano, nonostante avessero avuto una istruzione giusta alla quale però avevano aggiunte delle idee proprie di altre religioni, cosa dire di quelle religioni che non hanno conosciuto per nulla la verità? La seconda cosa che l'Eterno ha messo in evidenza è che solo Lui è Dio, cosa che ha affermato già due volte solo in questo brano. Dunque, se l'Eterno è solo Dio, va da sé che tutte le altre divinità non lo siano. Diversamente l'Eterno ha mentito. Se l'Eterno è solo Dio, va da sé che non sia possibile credere nel vero Dio e poi, come i samaritani, credere anche ad altri dii. Chi è dunque l'Eterno? E dunque, come Allah, solo un nome e non una persona, dato che non si può conoscere, né può avere relazione con l'uomo tanto è maestoso e grande, oppure è qualcuno che non si può vedere, Come sostengono i testimoni di Geova, niente di tutto questo. Il Dio degli ebrei, cioè Yahweh, riconosciuto in seguito come Dio anche dai cristiani, è un Dio che si è fatto conoscere, si è fatto vedere e toccare, perché i credenti avessero una fede non astratta e filosofica, ma una fede in qualcosa di concreto, di umano. Così il Dio che ha creato i cieli e la terra, l'uomo e gli animali e ogni cosa, si è fatto uomo come ogni altro essere mortale nella persona di Gesù, annunciando e confermando che vi è un solo Dio, aggiungendo però che in Dio sussistono tre persone, Padre, Figlio e il Consolatore, cioè lo Spirito. Chi ha una fede diversa crede in qualcosa che non conosce, come credeva la Samaritana, come credono oggi milioni di persone. Il vero adoratore non è, dunque, chi adora una qualsiasi divinità o il vero Dio, e poi anche qualche persona che è stata elevata al titolo di santo dagli uomini, anche perché gli uomini decidono di far santi chi vogliono. E il caso della Marchesa di Rudinì, vedova di un nobile veneto, che per 5 anni fu l'amante di Gabriele D'Annunzio, la quale, finita la passione sentimentale e sessuale, lasciò figli e casa, diventando religiosa di clausura, tanto ormai nel celebre monastero di Paray-le-Monial, in Francia, col nome di Suor Marie. Uno studioso della vita della Marchesa ha testimoniato che morì nel 1931 in concetto di santità, e oggi è stata proposta a suo favore una causa di beatificazione. Che sia avvenuta o no non importa, quello che vale è che molti santi hanno soddisfatto tutte le loro concupiscenze prima di cadere in un estremo rigorismo religioso. Triste storie che si ripetono. Si adora o si venera ciò che si ha nella mente. Lo prova il fatto che per coloro che hanno la pelle nera vi è anche la Madonna nera. E che dire delle Madonne ritratte dai pittori, molte delle quali altro non raffiguravano se non le loro amanti. I veri adoratori adorano il Dio vivente come si è rivelato, e non ciò che credono sia giusto. Il salmista disse: «Ho esaminato le mie vie, e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze». SL 119.59. La terza cosa messa in evidenza dall'Eterno è che credendo e ubbidendo a Lui si prospera. Quando disse affinché abbia prosperità tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi i tuoi giorni nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà per sempre, l'Eterno parlava sul serio. In effetti, se vi è un dramma veramente serio, è proprio la mancanza di possesso e di serenità del popolo di Israele sulla terra promessa. Nel 537 l'editto di Giustiniano priva gli ebrei dell'uguaglianza civile e della libertà religiosa. Nel 613 i persiani occupano Gerusalemme. Nel 624 Maometto muove guerra agli ebrei che non si convertono all'Islam. Nel 629 espulsione degli ebrei dalla Francia. Nel 694 gli ebrei in Spagna vengono ridotti in schiavitù. Nel 1096, prima crociata e massacro delle comunità ebraiche in Europa. Nel 1189, massacro degli ebrei in Inghilterra. Nel 1254 in Francia vengono banditi gli ebrei. Nel 1290 l'espulsione degli ebrei dall'Inghilterra. Negli anni 1338 avvengono massacri degli ebrei in Germania. Nel 1391 massacro degli ebrei a Siviglia. Nel 1421 espulsione degli ebrei da Vienna. Nel 1492 espulsione degli ebrei dalla Spagna. Nel 1495 espulsione degli ebrei dalla Lituania. Nel 1498 espulsione degli ebrei dal Portogallo. Nel 1516 creazione del primo ghetto a Venezia. Nel 1553 il Papa dei Cattolici brucia il Talmud a Roma. Negli anni 1653-1656, si fa presto a leggere ma gli anni sono lunghi, massacro di ebrei in Germania, Polonia, Ucraina e Austria. Nel Porturi. 1670 espulsione degli ebrei da Vienna. Nel 1764 fine dell'autonomia delle comunità ebraiche in Polonia. Nel 1815 inizio in tutta l'Europa della reazione contro il movimento d'emancipazione degli ebrei. Nel 1891 espulsione degli ebrei da Mosca. Nel 1933 arrivo al potere in Germania di Hitler e inizia la lotta di annientamento degli ebrei. Negli anni 1936-1940 legislazione antisemita e persecuzioni in Romania. Negli anni 1939-1945 Seconda Guerra Mondiale. massacro nazista di 6 milioni di ebrei, nel 1943 rivolta del ghetto di Varsavia e annientamento generale. Questi sono solo alcuni degli avvenimenti per dimostrare come Dio mantenga fede alle sue promesse, tanto a quelle belle come alle brutte. I veri adoratori credono in questo Dio che si è rivelato in questo modo, senza romanticismi né idealismi. Gli ebrei avevano e hanno questo Dio. Un Dio che oggi non conoscono e che i cristiani per merito di Gesù conoscono e adorano consapevoli di quello che Egli è. Dopo aver messo in evidenza che i samaritani adoravano ciò che non conoscevano, mentre i giudei adoravano chi si era loro rivelato, Gesù risponde al grande interrogativo della donna samaritana, e cioè in quale luogo e come si debba adorare il vero Dio. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dunque, i veri adoratori adorano il Padre, termine che in questo caso non è riferito solo alla prima persona della Trinità, ma a tutta la Trinità per intero, in spirito e verità. Sono questi due gli elementi basilari che caratterizzano il nuovo culto. La prima cosa da notare è che non si adora il Dio vivente con un solo elemento, o solo con lo spirito o solo in verità, ma occorre l'unione della verità e lo spirito, perché uno solo di questi elementi porta all'errore. Infatti molti offrono il culto alla loro divinità in spirito, pensando di esprimerlo al Dio Trino, ma non agendo nella verità, come fanno le religioni non cristiane. Mentre altri adorano Dio secondo i canoni cristiani, ma non in spirito, cioè senza essere condotti dallo Spirito Santo. Dicendo questo, Gesù ha messo in guardia i veri adoratori dall'essere idolatri come i samaritani, perché se esiste fra gli uomini un'inclinazione difficilissima da estirpare, è proprio quella di esprimere un culto a Dio solo e nel modo giusto. Riporto qui di seguito e per esteso una giusta indicazione in merito all'idolatria offerta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. In una riflessione sul primo comandamento, 2112, il primo comandamento condanna il politeismo. Esige dall'uomo di non credere in altri dei che Dio, di non venerare altre divinità che l'unico. La Scrittura costantemente richiama a questo rifiuto degli idoli che sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, i quali hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Questi idoli vani rendono l'uomo vano, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. SL 115.45. Dio, al contrario, è il Dio vivente, GS 3.10, SL 42.3, che fa vivere e interviene nella storia. 2113. L'idolatria non concerne soltanto i falsi culti del paganesimo. Rimane una costante tentazione per la fede. Consiste nel divinizzare ciò che non è Dio. E idolatria quando l'uomo onora e riverisce una creatura al posto di Dio, si tratti di dei o dei demoni, per esempio il satanismo, oppure di potere, del piacere, della razza, degli antenati, dello stato, del denaro, eccetera, non potete servire a Dio e a Mammona, dice Gesù, MT 6.24. Numerosi martiri sono morti per non adorare la bestia, rifiutando perfino di simularne il culto. L'idolatria respinge l'unica signoria di Dio, perciò è incompatibile con la comunione divina. Parole pie che giuste. Che dire di fronte a questa dichiarazione dell'idolatria espressa dal Catechismo della religione cattolica? Io sono perplesso, confuso, smarrito. Non per il contenuto che condivido pienamente, ma per l'incoerenza che trovo tra l'insegnamento e la realtà. Innanzitutto è stato messo in evidenza di non venerare altre divinità. Che dire, allora, se nel cattolicesimo si venerano delle persone come Maria, la madre di Gesù, e i santi, come Padre Pio, dichiarato per televisione il santo più importante del XX secolo, si risponderà che non sono divinità, ma è poi vero, la divinità si venera perché è tale, o si venera ciò che si ritiene divinità. Una statua muta di legno o pietra non è nulla, ma nel momento in cui la venero, significa che per me rappresenta qualcosa di molto importante, mi diventa un dio. Si dirà che la venerazione a sculture, pitture e qualsiasi raffigurazione di persone non si ferma all'oggetto ma a quello che rappresenta. Allora perché non mettere nell'immagine un serpente, un toro, una mucca o una adultera? Venerare un qualsiasi essere umano è una forma di idolatria, per quanto si voglia insistere che non si tratta di culto. E come dire che non mi drogo? Poiché assumo solo una piccolissima parte di cocaina, a condannarmi rimane pur sempre l'atto del drogarmi. E che dire, come afferma il catechismo, che l'idolatria consiste nel divinizzare ciò che non è Dio, che è idolatria quando l'uomo onora e riverisce una creatura al posto di Dio. Ma queste parole sono state pesate? Se che è una religione che onora e riverisce la creatura al posto del Dio è proprio il cattolicesimo romano. Quello che mi dispiace è che sembra si voglia fare polemica, che è così tanto distruttiva, ma Gesù ha dovuto dire alla samaritana che era un'adultera, prima che questa si interessasse veramente di Dio. E così credo che sia un atto d'amore far comprendere ai religiosi cattolici che le loro usanze di pietà popolare sono atti di idolatria e di bestemmia. Sta scritto, siano confusi quelli che servono le sculture, oppure siano confusi gli adoratori di immagini. SL 97.7. Se Gesù ha detto alla samaritana che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, vuol dire che non è possibile offrire altro culto, altra venerazione e onore, se non a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Quando il centurione fece il gesto di onorare l'apostolo Pietro, che per il cattolicesimo è il primo papa, Pietro disse: «Alzati, sono anch'io un uomo. Nessun cristiano, nell'era apostolica, ha mai adorato, venerato e onorato un altro uomo nel campo della fede, perché era trasgredire il grande primo comandamento, e trasgredendo il primo è inutile poi cercare di osservare gli altri». Giustamente il catechismo ha fatto notare che numerosi martiri sono morti piuttosto di adorare una falsa divinità, rifiutando perfino di simularne il culto. È da chiedersi dove sono oggi i martiri che rifiutano di adorare e venerare ciò che è sbagliato. Si dirà che i missionari tra i pagani hanno fatto questo. Ed è vero, ma io mi riferisco a quegli idoli che sono in casa propria. Pensiamo un attimo al re della tribù di Giuda, Ezechia, che quando iniziò a regnare distrusse gli alti luoghi e frantumò le colonne sacre, quello che per il cattolicesimo sono oggi vari altari. Abbatté l'Ashera, cioè una divinità femminile che assumeva vari nomi e connotazioni, molto facile da identificare nel cattolicesimo romano, e fece a pezzi il serpente di bronzo, 2 Re 18.4. Così leggiamo nella scrittura. Rimosse gli alti luoghi, frantumò le colonne sacre, abbatté l'Asherah e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli d'Ur, Israele, gli avevano offerto incenso e lo chiamò Neustan. 2 Re 18.4. Questo re colpì un culto offerto con incenso, appartenente a una tradizione millenaria in Israele. Chi infatti avrebbe osato astenersi dal venerare tale serpente? Non aveva forse guarito migliaia di persone? Tutti sapevano che non era stato il serpente a guarire dalla morte, gli israeliti morsi dai serpenti, ma poiché era stato il tramite per la loro guarigione, era ovvio che adesso fosse dato un certo speciale onore. Non è vero? Non tanto al serpente in sé, ma a quello che rappresentava. E poi l'aveva fatto fare Mosè. Così il popolo, di generazione in generazione per centinaia e centinaia di anni, per pietà popolare iniziò e continuò ad attribuire ad esso un culto speciale, quello che il cattolicesimo direbbe iperdulia, cioè il culto rivolto a Maria, e offrire incenso. E forse è cambiato qualcosa dopo circa 3.000 anni? 3.000 anni! E non sono pochi. Non si offre, forse, anche oggi dell'incenso a certe reliquie ritenute sacre? Non si offre forse ancora dell'incenso nei culti e nelle funzioni come atto di rito religioso? Giustamente, il catechismo sostiene che l'idolatria respinge l'unica signoria di Dio. Dove troviamo, nella religione cattolica romana, l'unica signoria di Dio? Per il romanesimo il Papa non è forse il vicario di Cristo, cioè di Dio, intendendo con il termine vicario colui che fa le veci di un'autorità, in sua assenza o impossibilità di esercitare, e dunque Dio assente e incapace di esercitare la sua autorità? Ho dei forti dubbi, oppure è assente perché è stato messo fuori? I fatti dicono che si può rispondere di sì a questa ultima domanda. I veri adoratori adorano Dio in spirito e verità, e solo in questo modo possono offrirgli un culto accettevole. Quando si parla di culto dobbiamo avere le idee chiare. Per la maggioranza degli adoratori il culto è riferito a quel momento solenne nel quale si cantano inni, si svolge una funzione religiosa, si elevano preghiere e si offrono varie oblazioni. Nulla di fondamentalmente sbagliato. Ma l'errore nasce quando il culto consiste solo in questo. L'apostolo Paolo, dopo aver presentato il messaggio evangelico, si espresse così in merito: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. RM 12.1. Vi è dunque un culto che non appartiene solo ad un momento specifico o ad una funzione religiosa, ma che si protrae per tutta la vita mediante l'utilizzo del proprio corpo come servo dello Spirito di Dio. Altri traduttori hanno reso questa esortazione in vari modi. Parlano di culto spirituale, di un culto secondo la ragione, o di un ragionevole servizio, oppure un servizio conforme alla parola. Queste traduzioni mettono in evidenza che tutta la vita, tutto l'essere del credente deve essere un culto, cioè una offerta a Dio, una offerta simile ad un sacrificio vivente. Un sacrifico è ciò che viene donato alla divinità per sempre e sul quale non si hanno più diritti. Come un animale che veniva sacrificato, con una differenza: per il credente questo sacrifico non è cruento, ma rimane una giornaliera e costante offerta razionale a fondo perduto. Così, la vita del cristiano rimane una costante consapevolezza di stare operando nel modo giusto e buono agli occhi dell'Eterno, DT 6.18-25-28, e non secondo gli elementi religiosi della società. Ecco perché Paolo dirà in seguito: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, RM 12.2. Dove sono quegli adoratori del Dio trino e vivente che si lasciano trasformare dalla parola di Dio? Il culto dei veri adoratori è prima di tutto razionale, cioè quando siamo capaci e pronti di dare una motivazione del perché si compie una certa cosa e perché non ne compie un'altra, mentre i religiosi seguono forme e riti senza necessariamente conoscere il contenuto della loro adorazione. Gesù sfida gli adoratori ad essere informati sulla divinità che adorano, perché se la salvezza viene dai giudei, come ha detto Gesù, allora tutti gli altri devono prendere contatto con il mondo ebraico di Gesù. Questo è possibile solo se la nostra adorazione è sia condotta dallo Spirito di Dio, sia conforme alla parola scritta, e per non sbagliare, occorre ritornare alle sue sane parole. Ottobre 2009, Ellero.